E allora, bentrovati e bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa, siamo ad Entropia Massima. Oggi è la puntata del ciclo sulla tecnologia. Sapete che quest'anno stiamo portando avanti un tema unico, quello dell'intelligenza artificiale. Chi ci ha ascoltato anche ieri sera, domenica sera, è andato in onda anche all'interno della trasmissione Le Dita nella Presa, un approfondimento sulle reti neurali, quindi su diciamo una parte importantissima dell'intelligenza artificiale. Non è stato fatto di proposito questo doppio appuntamento, ma chi ha seguito ieri oggi potrà trovarsi ancora più a suo agio. Invece di proposito è stato invitato oggi con noi Carlo della trasmissione L'Ora di Religione, e diciamo che vorremmo insieme a lui così provare un po' a ragionare, anche un po' a improvvisare dei ragionamenti. Anzi, l'invito al solito è per chi vuole quello di chiamarci, 06 49 17 50 è il numero per intervenire. E il tema che vogliamo trattare oggi è quello della religione dei dati. Da qui l'invito a Carlo, poi lui ci dirà se diciamo è in senso proprio si può parlare di religione. Di sicuro possiamo parlare di datismo, questo fenomeno esplosivo che vede, quindi tende a vedere l'universo intero come un flusso di dati, non solo diciamo le esperienze umane sul pianeta Terra. Ogni cosa, quindi al di là che sia un essere vivente o meno, ha valore all'interno del datismo in funzione del suo contributo alla elaborazione dei dati. Cioè più una cosa, che può essere anche un uomo questa cosa, ha capacità di elaborare dati, più ha valore. Questo è il caposaldo della teoria del datismo. Nasce dalla fusione di due grosse scienze, sicuramente nell'informatica, questo lo sapete, insomma, anche per chi ci segue lo sa benissimo che l'informatica in questo gioca un ruolo molto importante, ma non è il più importante. Quello più importante è quello della biochimica. Infatti 150 anni fa Charles Darwin scriveva Origine della specie, e da allora ad oggi si è andata formando questa idea che gli organismi siano in realtà degli algoritmi biochimici, e che quindi i cambiamenti di questi algoritmi sono segnati nel codice genetico, il DNA. Ecco, fondendo insieme l'informatica a questo è nato questo datismo. Quindi l'informatica, diciamo, possiamo citare, se da un lato abbiamo citato Charles Darwin, dall'altro citiamo Alan Turing, autore della famosa macchina di Turing, da cui poi nasce tutta l'informatica. E l'idea di Alan Turing è che gli algoritmi sono interpretabili da un elaboratore elettronico, e quindi da un lato abbiamo algoritmi biochimici, dall'altro abbiamo algoritmi digitali. Ecco, per il datismo le stesse leggi matematiche regolano i due tipi di algoritmi, e quindi se così è, creando macchine sempre più potenti, si finirà per superare le prestazioni biochimiche dell'uomo, di Homo sapiens, così come Homo sapiens ha già superato le prestazioni in termini di elaborazione dei dati degli altri animali, cosa che lo ha portato a diventare, diciamo, ad andare, diciamo, al vertice della catena alimentare mondiale, e quindi ad essere il dominatore del pianeta fino ad oggi. E naturalmente, Carlo, quando vuoi intervieni, Posso parlare? Beh, allora, abbiamo invitato a posto. Allora, intanto saluto gli ascoltatori di questa trasmissione, che può darsi anche che qualcuno conosce. Allora, un attimo, scusa, ma abbiamo un problema in realtà. Houston, abbiamo un problema. Abbiamo un problema sul microfono. Qui ce n'è uno solo, se no ce n'è uno volante. Prova quest'altro, scusa, poi lo rimettiamo a posto nella pausa. Allora sì, Pronto? Ecco, adesso ci siamo. Allora, di nuovo scusate, forse non mi hanno ascoltato prima, quindi no, infatti no. Ok. Intanto saluto tutti gli ascoltatori della trasmissione che forse qualcuno ha anche ascolta la nostra del venerdì, ma insomma, non è detto. e quindi potrebbero riconoscere la voce. Quello che tu dici, io, se la domanda è, si può parlare di religione dei dati, la risposta, per quanto mi concerne, è assolutamente no. E adesso magari vediamo anche perché. Voi mi chiamate proprio perché io tratto dall'altra frontiera, diciamo, quella sempre di Homo sapiens, però siccome io sono un antropologo e un filosofo, chiaramente ho appunto uno sguardo dall'altra sponda. Però ecco, intanto, come prima cosa, possiamo dire che queste due sponde, che un tempo sono state distanti, diciamo, l'una dall'altra, come avviene per il Tevere tra Vaticano e Stato, a volte si restringono, a volte si riallargano, ma questo è un altro discorso. Ecco, in questo caso queste sponde si sono molto molto più riavvicinate lungo proprio gli ultimi 60-70 anni, visto che tu citavi Turing, che comunque risale agli anni 40. Lui lavorò, ovviamente, come tutti sanno, perché è uscito un film anche, che più di uno in realtà, alla macchina per decifrare, decrittare i messaggi dei nazisti, quindi insomma lui faceva parte del famoso gruppo di ricerca inglese. E quindi, e da lì nasce appunto la macchina. Tutto quello che avviene dopo, e che ai miei tempi, di quando ero giovanissimo, si chiamava cibernetica, perché questa era, diciamo, lo scambio, la parola che consentiva lo scambio tra l'umano e la tecnologia informatica, che stava nascendo, perché la cibernetica muoveva proprio i primi passi tra gli anni 50, 60 e 70. Nel frattempo, chiaramente, anche gli studi sull'umano si sono avvantaggiati di tutti i nuovi sviluppi tecnologici, e probabilmente le grandi novità che hanno cambiato molto il modo di noi umani di conoscerci, e quindi di sapere chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo e dove andremo a finire, proprio in virtù delle tecnologie, secondo il tema filosoficamente posto nel Novecento da Heidegger, perché poi è quello che sulla tecnica indaga e tenta di dare la sua risposta, una risposta del tutto, diciamo, inaccettabile da un punto di vista proprio filosofico e ovviamente ancora di più antropologico, perché è una risposta come un savoiardo del tiramisù, proprio intinta nella metafisica invece che nel caffè, e quindi intrisa. Ecco, la questione della metafisica è proprio l'elemento che tu mi stai chiedendo, cioè c'è una intenzione di trascendere il tema della materia, quella che è il silicio, uso questa categoria così molto semplice per sintetizzare tutto quello che è il supporto del digitale, della tecnologia, e invece l'umano. Che cosa è successo? È successo che intanto due grandi ambiti di ricerca si sono schiusi, diciamo, davanti a noi, e sono quello della genetica, che grazie alla mappatura del DNA, dei codici genetici, che avviene tra gli anni 90 e i giorni nostri, che è in corso, abbiamo compreso molto più di quanto agli inizi. La genetica, che nasce addirittura 200 anni fa e che ebbe un ruolo importante nel dare informazioni del tutto fuorvianti proprio sulla nostra natura, tanto è vero che fu possibile forzare la genetica per tentare di dimostrare falsamente, costruendo una pseudoscienza, proprio la teoria delle razze. E che non esiste invece, e questo perché la genetica, grazie alle nuovissime indagini, alla mappatura del codice di DNA, ha permesso di chiarire che noi siamo al 99,9% tutti uguali. Qual è quella differenza, che è quello 0,1? Quello 0,1 è dato, è la variabilità, diciamo, superficiale, una genetica fenotipica. Questo per quanto riguarda come appariamo dall'esterno, quindi dentro siamo tutti uguali. Dall'altro lato, dico cosa siamo fatti dentro: di tanti organi, di un sistema complesso, di un'interfaccia che è il corpo visibile proprio, come vi vedete allo specchio, quello è un'interfaccia, cioè è il contenitore dell'elemento che ci fa essere Homo sapiens e che in fondo ci ha portato a costruire la tecnologia di cui Davide, scusate che ci siamo c'è stato un cambio di persona, perdonateci, di cui Davide vi aveva accennato. E che cos'è? È il cervello, quello è il luogo dove avvengono gli scambi chimico-elettrici che consentono al cervello di funzionare, di pensare, di pensarsi e addirittura di porsi la domanda. Quindi la macchina cervello, uso questo termine visto che ne abbiamo trattato, la macchina cervello che pensa su se stessa, che cos'è la macchina cervello? In fondo questo è il dato. E allora perché io ho detto l'interfaccia e il corpo? Perché parlando di intelligenza artificiale, tutti ricordano sicuramente che la svolta sull'intelligenza artificiale per il grande pubblico è al 9000, cioè per la prima volta nella storia umana è un film, visto che il cinema è nel 900 quello che è stato per altre epoche la letteratura, l'arte figurativa, cioè la rappresentazione dei grandi discorsi che l'umano ha fatto su se stesso, non solo nella cultura europea, mediterranea, occidentale, ma anche nelle altre culture, perché è dall'origine di Homo sapiens che noi abbiamo proprio esternato noi stessi, quindi il nostro cervello è arrivato a un livello di perfezione, di pensiero, tanto da proiettare la propria visione del mondo fuori di sé, con i graffiti sulle grotte. A un certo punto questi graffiti sulle grotte in 40.000 anni sono diventati anche un film, e tra questi appunto 2001. 2001 ha un protagonista fondamentale, sono due protagonisti, sono un astronauta e un computer per quasi tutto il film. Ecco, quella macchina ha un po' fuorviato, diciamo, nell'immaginario l'idea dell'intelligenza artificiale, perché al 9000 parla con una voce che in italiano è celeberrima, il doppiatore, ha una coscienza, tanto che è coscienza del suo creatore, e lo uccide, vorrebbe ucciderlo. L'ultimo si accorge di questo progetto e si salva, e il film procede come sapete. Cosa è successo? Che nel corso di questi 50 anni, perché quest'anno celebriamo anche tra i tanti tra le tante ricorrenze, anniversari, anche il cinquantenario di 2001, oltre a Martin Luther King, il 68, perché l'anno è quello. Quindi anche il cinquantenario di 2000, quindi siamo anche in tema. Okay. Il film esce tra un po', ma insomma ci siamo, siamo ancora aprile. Allora, lì dentro 50 anni fa c'era un'idea che non c'è più, perché questo nostro presente ci dice che per funzionare e per creare quella che non sappiamo ancora cos'è, che chiamiamo coscienza, e che è quella che ci fa dire tutto quello che è stato detto da Davide, cioè ma è possibile che i dati siano qualcosa di più dei dati, e che addirittura noi siamo dei dati, e che quindi noi siamo un pezzettino dell'universo che è fatto di dati. Questa visione, quindi, io ho detto all'inizio, non sono assolutamente d'accordo, non si può dire assolutamente, perché c'è un motivo, perché la coscienza, cioè il funzionamento del cervello che ci fa dire questo, che ci fa costruire il mondo e le macchine che consentono a noi ora più che mai per la prima volta di comprendere il mondo, di vederlo dal telescopio di Galileo al microscopio, che sono stati due momenti fondamentali nella storia umana. Nel 600 c'è stato questo cambiamento, abbiamo scoperto l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, prima sconosciuti, lì cambia tutto, infatti si parla di rivoluzione scientifica, e poi piano piano siamo entrati proprio a vedere, perché bisogna vedere le cose per spiegarle, anche se non direttamente. Che come siamo fatti ci deve dare una risposta che non viene assolta da come noi oggi vediamo funzionare il cervello. E quindi si è detto che per capire come funziona il cervello e quindi come è fatta la coscienza, ci serve il corpo che la contiene, cioè l'esperienza della vita. Il vivente, in termini biologici, è un bambino che nasce con il suo cervello, che non è tabula rasa come per tantissimo tempo è stato immaginato, ma dotato di un patrimonio genetico e quindi di qualche cosa che nei geni c'è anche in termini di coscienza, una trasmissione di qualcosa che viene da altri umani, in questo caso il padre e la madre, ma loro stessi risalendo hanno tutta una serie di parentele e quindi siamo tutti connessi, parenti, che poi sviluppando le possibilità che questo cervello ha nel mondo naturale, nel contesto in cui il bambino poi cresce e vive, quella vita determineranno la sua coscienza. Quindi che cosa vuol dire? Faccio un esempio. Nell'ambito sempre del cinema e della letteratura, che sono poi lo specchio di quello che la cultura fa, per cui dentro al 2001 c'era tutta la conoscenza scientifica che Clarke e Kubrick a livello di fonti avevano affrontato per scrivere il... Così come negli anni 80 il boom della letteratura nota come cyberpunk, cioè la ultima ondata della letteratura fantascientifica, avevano immaginato che uno dei grandi delle grandi paure fosse stata la possibilità di mettere una specie di presa alla base qui del dove noi abbiamo la cervicale quando fa male, una presa da cui scaricare proprio la conoscenza, trasmetterla in un hard disk e portarla in un altro corpo. Adesso c'è anche un film in questi giorni in sala che affronta di nuovo questo problema e quindi trasferirla. E qualcuno aveva pensato: un domani io prendo la Treccani, la digitalizzo, infilo la chiavetta, me la metto in testa e sono, diciamo, cosciente quanto la Treccani, cioè c'ho il sapere universale. Tutti gli scienziati più accorti hanno cominciato a porre dei dubbi, hanno detto: ma insomma, un momento, c'è qualcosa che non va. Intanto perché io non, dove li trovo tutti questi dati che mi vengono riversati in 10 secondi del cervello? Perché sono dei dati che io non, dove l'ho messi? Come li posso maneggiare? All'estato delle conoscenze attuali, anche perché qui noi facciamo scienza e non fantascienza, non facciamo previsioni, io non lo so cosa succede tra 100 anni, nessuno lo può sapere. Chi ve lo dice è un ciarlatano. Posso immaginare, con i mezzi che abbiamo della scienza, quello che può avvenire tra 10, 20, 30 anni? Sì, perché la tendenza, ma basta. Attualmente noi sappiamo che a queste condizioni, senza il tempo vissuto di acquisizione di quelle informazioni, io di quelle informazioni non ci faccio nulla. Prego. E infatti quella tendenza, che sembra essere quella insomma più attuale, è quella di lasciar stare proprio il cervello umano, considerarlo inadatto a gestire moli di dati dell'entità di cui oggi si dispone, e invece trasferire direttamente in un luogo astratto, quello, no, della rete internet, del cyberspazio, diciamo cyberspazio che è più completo, come giustamente ricordavi te la parola greca, no? Cibernetica. Esatto, non volevo... E quindi si sta affermando questa idea per cui l'essere umano non è proprio in grado di gestire questi flussi di dati. Chi ne è davvero in grado? Le macchine. E in che modo? Beh, le macchine vengono costruite apposta per gestire questi dati, e gli algoritmi che utilizzano le macchine sono costruiti dall'uomo, ma in certi casi anche in autoapprendimento, quindi possono anche procedere da soli, e si muovono con un'efficienza inimmaginabile, ma anche verso direzioni inimmaginabili, verso dove noi non possiamo seguirli. Quindi si crea un problema un po' strano, cioè quello che stiamo forse per scomparire. Allora intanto una cosa, la questione della accantonare il problema del cervello, diciamo che è un escamotage un po' infantile perché è un grosso problema, e io personalmente, da appunto antropologo, quindi colui che studia antropos e fa un discorso sull'umano da tutto tondo, devo occuparmi ancora del cervello, perché poi in fondo che cos'è il cervello? È quello che tutto quello di cui stai parlando ha creato, cioè, è la mente umana che nella sua evoluzione... Allora, intanto vediamo il tempo di questa evoluzione. È lungo, perché stando alle nostre conoscenze, che sono abbastanza, come dire, definite adesso, anche se le informazioni sono molto così frammentarie, perché abbiamo bisogno di riferimenti archeologici, ma insomma noi come specie, come speciazione, ecco, che si separa da quelle che sono oggi le grandi scimmie, abbiamo 6 milioni di anni. Quindi sono 6 milioni di anni che a un certo punto avvenne una separazione verso la quale sul ramo che ha prodotto un cespuglio abbiamo poi oggi le scimmie e le grandi scimmie, cioè gli oranghi, i gorilla e ovviamente scimpanzé e bonobo, che sono i più vicini a noi, quindi i più evoluti da un punto di vista nell'ambito del regno animale, quindi senza coscienza, almeno non quella nostra, ce l'hanno ma diversa, certamente il dolore e anche i grandi sentimenti. E oggi abbiamo scoperto che queste grandi scimmie, cioè i bonobo di oggi, hanno la morale. Ovviamente una morale diversa perché primigenia, però un famoso esperimento di Van der Waals, che è uno dei massimi zoologi etologi viventi, ormai quasi ottantenne, uno dei padri della ricerca degli ultimi anni, hanno fatto un esperimento molto celebre in cui due cebo cappuccino, che sono quelli con la testa bianca, è la scimmiettina che si vede in Una notte al museo, così per capire chi ha dei figli è sicuramente capito, è una piccola scimmiettina grande 50 centimetri, che a due uguali in una gabbia sono state abituate a ricevere un premio se avessero fatto una certa azione. Quando il premio a una delle due è stato cambiato, quella che ha ricevuto invece che il formaggio, che il lampone, un pezzetto di formaggio, ha preso il formaggio e l'ha tirato addosso più volte con risentimento molto esplicito e diremmo quasi umano nel vederlo, questo esperimento che sta su internet, su YouTube. Abbiamo capito che quella scimmiettina sicuramente ha il senso della giustizia e quindi ha trovato ingiusto che dopo aver fatto bene la sua azione gli sia stato dato un premio diverso dalla scimmia della sua gabbia a fianco. Questo ci dice che anche le scimmie, che hanno avuto un percorso totalmente diverso, hanno elaborato anche loro in questi 6 milioni di anni una raffinazione proprio della loro esperienza nella vita animale. Perché? Perché questo senso della giustizia è funzionale al miglioramento, alla sopravvivenza, è un fatto evolutivo. Quindi noi, che invece abbiamo subito gli altri 6 milioni di anni di percorso, abbiamo prodotto dei nostri antenati, la famosa Lucy, insomma, anche se poi le cose sono un po' cambiate, ma insomma la famosa Lucy che fu trovata negli anni 70, la mamma di tutti noi, un'australopitecina alta manco 50 centimetri, poi attraverso, ripeto, sempre una ramificazione per come proprio un cespuglio con dei rami interrotti e nuovi cespugli e poi ancora biforcazioni, sempre non c'è linearità come il famoso disegno che tutti vedono, cioè la scimmia piano piano si alza e poi diventa Homo sapiens. Quella linearità non esiste, non è mai esistita, non c'è nessuna linearità, non ci sono anelli mancanti nel senso che tutti hanno immaginato. Questo lo dico proprio perché quando si parla di chi critica l'evoluzionismo lavora su temi che non sono proprio, sono arcaici. Quindi noi siamo arrivati all'Homo sapiens. Quanto c'ha l'Homo sapiens? È discusso adesso perché dipende da cosa troviamo. Per adesso abbiamo trovato tutta una serie di reperti che ci dicono che Homo sapiens ha più o meno 200.000 anni. Noi come Homo sapiens abbiamo convissuto con almeno altre 4 specie che si sono estinte per ragioni non dipendenti direttamente dalla volontà di Homo sapiens. Parliamo di numeri infimi sul pianeta Terra, quindi si parla di poche decine di migliaia di esseri pre-Homo sapiens, e più di tutti abbiamo convissuto con i Neanderthal, che si sono evoluti in Europa molto prima di noi. Quando noi siamo arrivati li abbiamo trovati, abbiamo scoperto recentissimamente che avevano una capacità di fare astrazione, abbiamo trovato grotte con una sistemazione di sassi che hanno impiegato energia perché bisogna entrare 300 metri in una galleria, portarli, sistemarli, quindi non fatti a cavolo così tanto per, ma c'era un motivo. Chi fa una cosa con quel motivo vuol dire che ha una visione che va al di là, diciamo, del bisogno di sopravvivere cacciando e raccogliendo frutti o mangiando bisonti o piccole lepri. Quindi anche i Neanderthal sono arrivati a quello che noi contemporaneamente abbiamo poi realizzato con questa capacità, con la corteccia prefrontale, cioè la neocorteccia, che poi è una cosa molto superficiale, leggera, pochi millimetri, ma è lì che c'è tutta la novità dei sapiens. Poi, come ho detto, per ragioni del tutto determinate dall'ambiente, le altre specie oltre al Neanderthal si sono estinte, e quindi da noi da circa 50.000 anni, 40.000 anni, siamo soli. L'unica specie di questa ominazione durata 6 milioni di anni, siamo soli. Cosa ci dice questo? Che il tempo è la variabile, diciamo, per la mente, per il cervello e per la macchina che noi siamo, che lo ha fatta diventare tale. Questa complessità, questa enorme complessità, non è chiaro come possa trasformarsi in pochi decenni con quello che la tecnologia sta facendo. E cioè, se io faccio un androide, che poi la forma, oggi si tende a vedere online dei robot, chiamiamoli col vecchio termine degli anni 20, che fu coniato per un famosissimo una pièce teatrale, che poi deriva da lavoro, la parola è una cosa cecoslovacca, cioè, che erano schiavi, vuol dire schiavi al robot, robota è una parola cecoslovacca, ed robot. Comunque l'androide, noi dobbiamo, per poter dire, fare quello che tu ovviamente dicevi, non solo un cervello artificiale, ma un corpo che è come l'umano e quindi fatto proprio del sensibile che tutto il corpo umano esprime, per poter trasferire quelle informazioni che il mondo che intorno al corpo esiste dà per pensare e pensarsi, per poter ottenere un oggetto che sia quantomeno paragonabile all'umano. Quindi che cosa dovremmo fare? Dovremmo fare un clone. Ecco, il clone è l'altro grande tema. Quando duplicarono la pecora d'oro, duplicarono Dolly, sui giornali si leggeva: oddio, adesso la paura, i cloni. E qualcuno invece, in termini non negativisti, ma da ottimista, diceva: ah beh, adesso io mi clono, mi faccio uno uguale a me. E ora i nostri ascoltatori saranno avvezzi sicuramente alla critica, dicendo: ma non è possibile, perché se Davide si clona non ci sarà mai un altro Davide, perché come faccio io a clonare Davide e a far rivivere a Davide, che ha i suoi anni, tutti quegli anni per cui Davide è Davide? E non si può, perché dovremmo tornare indietro nel tempo, far rivivere il clone di Davide appena nato la stessa esperienza, e non è possibile, perché per la teoria del caos e della complessità basta che piove un minuto in uno dei tutta la sua vita, e quello già cambia l'esperienza che ha dato Davide. Quindi già questa novità, perché la clonazione è l'altro grande elemento prodotto dalla genetica, ci ha poi posto delle domande. L'abbiamo risposto, abbiamo detto: non si può clonare, posso ottenere un corpo uguale a te, ammesso e non concesso, che poi crescerà, tanto quando ci avrà la tua età, tu probabilmente, non essendo proprio un ragazzino, forse manco ci sarai più quando avrà raggiunto il clone la tua età, ma l'avrà vissuta in un contesto che non ha niente a che vedere con il tuo, no? E quindi questo è il grande limite della mente artificiale, che non potrà mai essere come il suo creatore. Se questi funzioneranno... Potrebbe servire che sia come il suo creatore, o potrebbe anche non servire? Esatto, qualcuno sta dicendo: a me non interessa riprodurla, certo, come il suo creatore, certo. Gli scopi sono altri. Vuol dire che tu dici: io prendo il sapere, lo butto dentro, questo, e siamo oltre il, diciamo, il prevedibile, siamo in un futuro molto lontano, questo potrebbe causare, come dicevi tu, l'autoestinzione della specie umana, o quantomeno, come dire, la salvezza dell'esperienza della specie umana, alla luce del fatto che, qui in chiave proprio distopica, la specie umana ha fatto errori talmente grossolani sul pianeta Terra che non è più in grado di vivere con questo corpo su questo pianeta. Dice: almeno salviamo il salvabile. Bene, prendiamoci 5 minuti di pausa. Ci ascoltiamo Queens of the Stone Age. Ho risposto. See this deal, man. Blow your mind. Come on. Hey. Well, I first met her, she was 17. across my beating heart. Allora, ritorniamo in diretta con Entropia Massima. Durante la pausa abbiamo ricevuto una chiamata di un ascoltatore che voleva parlarci, ma poi non siamo più riusciti a metterci in contatto con lui. Se vuole richiamarci, siamo qui. E sapete che potete chiamare quando volete allo 06 49 17 50 e prendiamo le vostre chiamate. Dunque, riprendiamo a parlare di dati e quindi a considerare Homo sapiens come un organismo che elabora dati. Qualcuno dice è come se fosse un chip, e da una prospettiva datista la storia può essere vista attraverso dei metodi di efficientamento nell'elaborazione dei dati. Per esempio, aumento del numero, no? Demografico. Quindi siamo cresciuti, ci sono le città, una città grande rispetto a un paese piccolo ha enormemente più capacità di elaborazione. Oppure varietà. Da che siamo, diciamo, dopo la rivoluzione agricola c'è stata una grande diversificazione dei ruoli, e quindi se prendiamo un contadino e un intellettuale, che parlano di una delle cose molto più interessanti di tre raccoglitori cacciatori dell'epoca preagricola, no? E poi connessioni, cioè questa varietà, questo numero deve essere tra loro connesso. Allora, le reti commerciali fanno sì che, no, tante città che da sole non potrebbero elaborare abbastanza dati, insieme con queste connessioni possono elaborare molti di più. E infine, ultimo metodo, quello della libertà del movimento all'interno di queste connessioni. E quindi se ci sono delle strade che connettono la città, però queste strade sono insicure perché sono infestate di rapinatori, oppure c'è un despota che mette delle gabelle e non ci fa passare, o ci sono molte buche come a Roma, di fatto è incompleto. Quindi tutti questi metodi in qualche modo sono quelli che vengono utilizzati nella storia dell'uomo per aumentare la capacità elaborativa dell'uomo e di tutta l'umanità nel suo complesso. Sì, guarda, io proprio tempo fa con degli studenti, dei miei studenti, per fare così un po' di brainstorming su temi di questo genere, dissi una cosa a cui pensavo da tempo, facendo non un'operazione proprio altamente scientifica, ma come dire una forzatura poetica, e quindi presa con tutte le dovute differenze, ho detto che i Fenici, che tutti conosciamo, a meno perché così alle elementari ci ricordiamo questi grandi navigatori, erano in realtà i social network del primo millennio avanti, diciamo, prima dell'era volgare. Quindi perché? Esattamente per quello che dici tu. I Fenici sono stati fondamentali perché hanno modificato radicalmente, per ragioni che non possiamo qui ricordare, il modo di stare al mondo degli umani di quell'epoca, che non erano quelli di oggi, intanto perché c'erano pochi milioni di umani sulla Terra in quell'epoca lì. Parlo di 3.000 anni fa circa, da 3.000 a 2.500 anni fa. Dopo i Fenici, che sono diventati cartaginesi, quelli che conosciamo, sono stati così sconfitti dai Romani e si è persa, diciamo, la loro cultura originaria, ma è stata assorbita ovviamente dai Romani con perdite. E questo è un elemento importante. Ma però che è successo? Che hanno fatto network. Cioè, chi erano? Erano dei navigatori che hanno stabilito dei porti in tutto il Mediterraneo e non solo, come nodi nei quali arrivavano le merci. Loro non si occupavano di quello che accadeva nell'entroterra, la smistavano. Ma non solo le merci, perché cosa smistavano? Conoscenze, perché tutti quelli che portavano i prodotti e interagivano con i mercanti e i marinai interagivano umanamente, bevevano del vino annacquato perché non era quello d'oggi, oggi era chiacchierava, giocavano ai dadi, si scambiavano informazioni, miti, racconti. E quindi noi oggi, quando studiamo la cultura umana, dobbiamo tenere conto di questo, perché scopriamo che tutta una serie di certezze codificate come ci siamo immaginati fino a un certo periodo invece non lo sono per niente. E quindi quando parliamo proprio della nostra, di cultura, dobbiamo dire che non c'è niente di nostro, è un continuo divenire, ininterrotto, senza soluzione di continuità, con certamente all'interno di questi vari momenti storici dei passaggi di chiamiamoli salti tecnologici, perché poi queste informazioni, queste conoscenze molto molto complesse, a un certo punto producono delle risposte a domande per migliorare l'efficienza di tutto questo sistema, che poi a cosa serve? A farci mangiare meglio e riprodurre meglio, perché poi la base dell'Homo sapiens è riprodursi e star bene come corpo che consente la riproduzione della specie. Però anche questo, che è un elemento diciamo biostorico, non è così esaustivo, perché l'uomo, Homo sapiens, ha prodotto in questi 6 milioni di anni, in particolare negli ultimi 200.000 e in particolare sicuramente negli ultimi 40.000, ha prodotto la cultura, quella che chiamiamo cultura, che non è ciò che si intende a chiacchierando tra amici al bar, cioè tu sai un sacco di cose, come rischia tutto, ma quello non sa niente. No, no, quella è erudizione, conoscenza, nozionismo, quello che volete. Ma anche noi che facciamo di professione gli intellettuali, cioè nel senso ci occupiamo di parlare delle cose dell'umano, no, siamo un pezzetto della cultura. Certo, i filosofi, gli antropologi sono sicuramente quelli che più di tutti devono confrontarsi con la enorme complessità della parola cultura, ma quella è cultura. E la cultura ha un ruolo fondamentale. Cosa dice oggi la scienza contemporanea rispetto a questa manipolazione dei dati? Che noi come macchine che usiamo i dati, cioè siamo dati, ma l'elaborazione dei dati, che è data dalla cultura, è sottoposta al caso. E il caso è e caso rimane. La stocastica, che penso tu conosca sicuramente meglio di me, perché sei uno scienziato hard, nel senso che non pornografico, ma ti occupi di scienze dure, fisica e matematica, sai benissimo che è irriducibile, diciamo, alla conoscenza, al tempo e allo spazio. Infatti un Nobel, che è un chimico peraltro, che si chiama, chiamava Jacques Monod, così chi lo vuole cercare il libro si trova ancora, perché è uno di questi evergreen, che si intitola Caso e necessità. Caso e necessità è il libro con cui nel 72, credo uscì nel 72, ci fu la sintesi all'epoca dei saperi rispetto all'evoluzionismo. Non è cambiato, è